Segnaliamo alcuni appuntamenti. Uno di questi è con la nostra Lisa Ferlazzo Natoli, che torna in scena con un progetto dal 26 al 28 di questo mese, di questa settimana, alla Pelanda. Intanto, Lisa, ben ritrovata al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao Radio Onda Rossa, ben ritrovati. Ciao. Allora Lisa, mi incuriosiva molto, chiaramente verrò a vederlo, ne parliamo un po', ci racconti di cosa certo. si tratta? Sì, sì, parto da capo? Parti da capo. Allora, intanto vabbè, è un progetto mio, nasce da me, da Gianluca Ruggeri, compositore percussionista degli Assoluti, e a cui poi si sono aggiunte Maddalena Parisi, Alessandro Carroni, con le immagini, Luigi Biondi con le luci, perché nomino tutte queste persone, anche Giuseppe Silvi, che è una specie di ingegnere del suono, inventore, che ha inventato queste casse tetratetiche per la, come dire, per propagare il suono in un certo modo. Faccio questa premessa perché questo L'esadio e parole salvate dalle fiamme è uno strano melologo, per noi l'abbiamo chiamato, per il nuovo millennio, che vuole essere un omaggio ai poeti, compagni e dissidenti della rivoluzione d'ottobre, quindi Majakovskij, Jesenin, Pasternak, Bloch, naturalmente il grande padre, e a tantissima straordinaria musica che insomma ha determinato poi tutto la sperimentazione del Novecento, da Prokofiev fino a Rachmaninoff, per passare a tutta una serie di canti ucraini popolari, e a tutto quel lavoro per immagini di immagini che dalla fotografia al costruttivismo fino a Chagall, sempre in quegli stessi anni, stava accadendo in Russia. Questo perché? Perché, come dire, la rivoluzione d'ottobre, al di là del suo, come dire, della grande bellezza, del grande fallimento, è nata anche sulla scorta di un'enorme rivoluzione culturale che in Russia avveniva su tutti i piani e che ha lasciato un'eredità, rilascia ancora come l'uranio un'eredità a noi, al nuovo millennio, no? Sì. Quindi appunto questo 360 gradi della riflessione fino al cinema, come sappiamo benissimo. Quindi per noi è un omaggio a quegli anni, è un omaggio anche a tanto teatro che abbiamo amato, e appunto da quattro modi diversi di morire in versi di Carmelo Bene, alle meravigliose sperimentazioni di immagini in Studio Azzurro con Prokofiev, e anche un modo di tornare, andare a riguardare questa rivoluzione d'ottobre con tutta l'asprezza, Olivia, che questa presuppone, e proprio per il suo enorme fallimento quando poi il Soviet ha preso possesso di tutto. E in questo abbiamo immaginato anche accanto allo spettacolo, prima dello spettacolo, quella che abbiamo chiamato una stanza della rivoluzione, cioè i 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed, che è giornalista socialista che in quel periodo in tempo reale durante la rivoluzione d'ottobre assisteva e scriveva in un adattamento recitati da Leo De Capitani, che si è prestato, che è il grande interprete, no, dei personaggi americani. Sì. Quindi ci interessava anche questo doppio laccio, no, fra le due sponde dei continenti. Sì, ecco. Sì, sì. Senti, come la curiosità che mi viene subito in mente è come avete messo in rapporto per questa composizione musica, parole e credo anche immagini. E in realtà è proprio anche per questo che abbiamo chiamato un melologo. Le immagini sono strutturate, pensate e costruite proprio sulla parola e sulla musica. Questo non voglio dire che ci sia una corrispondenza didascalica, ma sì, proprio dialogano. Ci sono dei luoghi immaginifici che sono diversi per questi quattro poeti. Quindi innanzitutto abbiamo identificato, Alessandro Perroni e Maddalena Parisi hanno identificato questi luoghi. E adesso possiamo dire, per esempio, Jesenin dice: noi siamo figli dei racconti delle nostre nonne che credevano che il mondo si tenesse su tre balene, no? Immagine straordinaria. O gli azzurri di Jesenin, i dorati, laddove invece Majakovskij è più vicino al costruttivismo, laddove Bloch è quasi nei 12 è talmente potente l'immagine visuale e sonora che hanno lavorato più in una direzione astratta. ci sono incroci di anche di immagini di Eisenstein, laddove in qualche modo la poesia racconta più direttamente la Russia. Quindi è come se ci fosse una partitura. Alessandra Ferroni dice appunto: abbiamo lavorato un po' come lavora il costruttivismo in maniera sincretica, un quadro fatto di stratificazione di tanti materiali diversi, noi l'abbiamo fatto in diacronia, seguendo lo spettacolo. Quindi questo è il rapporto con, diciamo, con le immagini, che è molto potente perché ci sono 4-5 stendardi, quindi noi siamo dietro, si vede naturalmente, però siamo proprio dentro le immagini. Sì, sì. Allora, un'altra curiosità è: quanti autori avete tirato in ballo e quanti sarete voi sul palcoscenico? Gli autori poetici tirati in ballo, a parte i nostri 4 compagni dissidenti, lo spettacolo inizia con il preludio di Pushkin di Ruslan e Ludmila, proprio perché è un omaggio, Pushkin amatissimo da tutti i poeti della rivoluzione, i nostri poeti, non della rivoluzione, ma appunto compagni dissidenti. E poi c'è un altro piccolo pezzo che è il cantare di Igor, che è di un anonimo, che è una, diciamo, è una sorta di chanson de geste del circa 1200 russa. È come un ciclo di fondazione. Okay. Musicalmente Ruggeri ha stratificato appunto da Prokofiev, Rachmaninoff, ci sono delle, diciamo, dei passaggi anche proprio di musica contemporanea che lui ha scritto per l'Uomo Nero di Jesenin, ha letteralmente scritto un melologo, quindi un lavoro in musica, fino ad arrivare a certe cose di Mussorgsky. Proprio il campo è molto ampio, e la cosa molto interessante per andare alle persone che saremo in scena è la rielaborazione, perché sì. Ruggeri ha rielaborato per un quartetto, per se stesso, pianista e percussionista, Luca Sansola viola, Samuele Telari al baian e Gianni Trovalusci ai flauti e ai flauti elettronici. Quindi questo è il nostro quartetto, e sono veramente musicisti di eccezione, siamo molto fortunati. E in scena, assieme a me, ci saranno Emiliano Masala, che è, diciamo, ognuno di noi in qualche modo ha un poeta, Emiliano Masala è Pasternak, io sono Jesenin, Fortunato Leccese sarà Majakovskij, e poi Bloch invece lo faremo insieme, i 12 di Bloch, che è una cavalcata, sarà a 3 voci. Bene, bene. Allora, ricordiamo i 3 giorni, 26, 27 e sì. 28, l'orario è alle 20 se non sbaglio. È alle 20 negli spazi della Pelanda al Macro Testaccio. Perfetto, quindi le informazioni in rete relative al Roma Europa. Sì, i biglietti si possono comprare in rete, okay. Vi consigliamo appunto di venire un po' prima, cioè alle 7:30, perché c'è anche la stanza della rivoluzione, che si può vedere sia prima che dopo lo spettacolo, del tutto liberamente, ed è gratuita. È stato proprio il nostro dono, diciamo, al festival. Bene. Allora, Lisa, ci vediamo a teatro, un abbraccio, in bocca al lupo. Un abbraccio a te, a tra pochissimo, Federico. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.